Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, grazie per essere in nostra compagnia. Abbiamo Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire i temi di cui ci occuperemo oggi. Freddo a fior di pelle. Un esame visto da vicino, l'elettrocardiogramma, l'equilibrio di Botticelli. Beh, oggi ci voleva, con questo freddo abbiamo pensato di occuparci della nostra pelle, che il freddo lo soffre e ci manda dei segnali, si lamenta, si arrossa, si secca, si macchia. La vostra pelle come sta reagendo alle giornate rigide di questi giorni? Chiamateci 800 24 0024, ci prenderemo cura della vostra pelle oggi insieme al dottor Vincenzo Bettoli. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Dermatologo presso la clinica dermatologica all'Università di Ferrara e responsabile dell'ambulatorio acne, e in linea con noi abbiamo la nostra dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Buongiorno dottoressa Serri, bentornata. Buongiorno Nicoletta, ciao Vincenzo. Ciao Riccardo. Dottor Bettoli, allora l'inverno a molti di noi non piace, è una stagione un po' spenta, fredda, la nostra pelle si lamenta, è fisiologico? Beh sì, è fisiologico nel senso che quando il freddo è così intenso non si incontrano quelle che sono le condizioni naturali e normali per la nostra cute, e la cute ha il compito anche di difendere il nostro organismo nel suo insieme dal freddo stesso, per cui tende a presentarsi una vasocostrizione, la quale tende a fare in modo che il sangue rimanga nelle parti più interne del corpo e quindi non si disperda calore. E questa costrizione prolungata tende a portare ad essere uno dei fattori che provocano un pallore cutaneo e anche una secchezza cutanea. Ma è chiaro che il fattore più importante nel determinismo di quelle che sono le alterazioni legate al freddo sono il freddo stesso, che è anche il vento, soprattutto se secco, che porta ad un allontanamento di quello che è il film idrolipidico che noi abbiamo sulla cute, e il quale permette di lasciare la nostra cute protetta, più in grado di essere nel corso degli stiramenti, dei movimenti, più elastica e segue i movimenti dei tessuti che stanno sotto. Questo film idrolipidico, che è prodotto da un insieme di lipidi che vengono dalle cellule dell'epidermide, come anche dalla produzione delle ghiandole sebacee, producono proprio uno strato che ci difende. È quello stesso che hanno gli animali a lungo pelo e lo stesso che serve a loro per proteggersi dal vento e dal freddo nelle stagioni invernali. È chiaro che quando questo viene a mancare, poi la pelle perde la sua elasticità, non è più così soffice e tende anche a spaccarsi. Sarà capitato a tutti in occasione di periodi come questi di vedere che la cute tende a creare delle vere e proprie ragadi, soprattutto nelle zone di movimento, per esempio le zone più classiche, quella delle nocche delle mani, certo, delle dita delle mani, nelle quali si trovano delle spaccature. Addirittura i francesi chiamano questo aspetto con un termine che è il craquelé, che ricorda in un certo senso qualche pasticcino, e in ogni caso è una dermatite che a volte porta anche i pazienti al dermatologo, perché assume gli aspetti quasi eczematiformi. È curioso un aspetto clinico che viene chiamato di descomazione a binario, perché la cute proprio si spacca, come a volte si spacca la terra quando è secca, e spaccandosi lo strato corneo si arriccia i bordi e crea una riduzione di spessore che permette di vedere meglio quanto sta sotto come vasi capillari, per cui si viene a creare una zona centrale arrossata, questo arricciamento della cute intorno, e questa viene chiamata descomazione a binario. Ed è la lesione caratteristica di quella che viene della dermatite chiamata con un termine specifico proprio dermatite asteatosica, che sta a significare il fatto che i grassi, i lipidi che sono sulla cute vengono ad essere eliminati da questo freddo, in particolare appunto se ventoso, e quindi lasciano la cute scoperta, non protetta ed esposta a queste spaccature, soprattutto nelle zone di movimento. Dottoressa Serri, ma il freddo qualcosa di buono lo farà? Mi viene in mente sì, conserva, nel senso che se ci si ibernasse probabilmente potremmo mantenerci. In realtà alla pelle quello che fa particolarmente male è questa anche carenza circolatoria che crea la vasocostrizione dovuta al freddo, perché la pelle ha proprio bisogno di sangue. Quindi tutto quello che comunque permette, facilita lo scorrimento del sangue, aiuta anche a preservare gli eventuali danni da freddo. Benefici del freddo sì, ce ne possono essere, perché se però è un freddo monitorato, guidato, condotto, il freddo imposto dall'inverno associato alle variazioni di temperatura, associato magari al freddo e bagnato, sono particolarmente dannosi, nel senso, come ci si protegge il corpo dalla temperatura fredda per non ammalarci, così dobbiamo anche proteggere la pelle, con indumenti però amici della pelle stessa, e per questo bisogna porre una particolare attenzione anche a quello che si usa per vestirsi. E di questo parleremo, perché oggi faremo proprio un viaggio, direi, dalla punta del naso sino al dito mignolo, per prenderci cura della pelle e quindi proteggerla e darle la giusta anche idratazione, per evitare che questo freddo l'arrossi, la secchi e faccia peggiorare anche alcune delle malattie cutanee di cui abbiamo parlato in puntate dedicate. Dottor Bettoli, vogliamo fare un rapido elenco delle patologie cutanee che peggiorano con il freddo? Sicuramente i soggetti che hanno una intensa tendenza ad avere una vasocostrizione cutanea, tipo per esempio i soggetti che mostrano geloni, sì, oppure quei soggetti che mostrano quei quadri che vengono chiamati acrocianosi o anche eritrocianosi, quei soggetti che hanno un rallentato deflusso venoso, una dilatazione prolungata dei capillari e rimangono con la cute, che so, spesso capita di vedere soprattutto nelle giovani, ai glutei o alle cosce più bluastre, un rosso bluastro. Esistono addirittura forme del fenomeno di Raynaud. È una situazione nella quale i soggetti affetti mostrano una tendenza molto spiccata ad avere una vasocostrizione di tipo arterioso quando sono a contatto con il freddo, per cui addirittura queste dita, se è vero che la vasocostrizione fino a un certo punto è utile e lascia la cute un po' più pallida, ma in questi casi la cute e le estremità, in particolare le dita più frequentemente colpite delle mani, diventano proprio bianchissime, tanto da avere quasi un aspetto quasi non vitale. Il tutto poi è seguito da una fase di recupero, e quindi la cute ritorna prima bluastra, poi arrossata. Ma sì, queste sono sicuramente situazioni molto, molto impegnative, che possono avvenire in soggetti che d'altro canto stanno bene, hanno solamente una familiarità, ma in altri casi bisogna fare attenzione alla possibilità che ci siano associate patologie sistemiche importanti. Per quanto riguarda sempre la cute, bisogna fare attenzione ai soggetti che sono affetti da crioglobulinemie, cioè? Sono soggetti che producono, siamo nell'ambito patologico in questo caso, producono immunoglobuline, le quali sono stimolate dal freddo e col freddo cambiano la loro caratteristica biologica, per cui finiscono anche per, ora semplifico, finiscono per occludere alcuni vasi e possono dare dei quadri cutanei con lesioni eritematose, a volte anche necrosi. Quindi è uno dei pensieri che va fatto quando ci sono soggetti che mostrano quadri cutanei variegati, con varie morfologie legate al freddo. Allora, di questo, dottore, parleremo naturalmente anche, approfittando di lei, di acne, di dermatite seborroica, accenneremo alla psoriasi e insieme alla dottoressa Serri cercheremo insieme la crema, i prodotti che più aiutano la nostra pelle a difendersi dal freddo. Arrivano già molti messaggi, vedo che il contorno delle labbra, le labbra, la zona intorno agli occhi, molti già mi scrivono, ho il prurito, specie quando la temperatura scende. Risponderemo a tutti i vostri messaggi, alle vostre chiamate all'800 24 00 24. Una mela al giorno. Mi devi aiutare, domani c'è la visita medica di controllo, dobbiamo fare tutti i test, tra i test c'è anche l'elettrocardiografo. Non ti preoccupare, ti passo le risposte.

delle alterazioni che possono essere suggestive anche di una patologia importante. Questo sicuramente come screening. Poi per quanto riguarda invece l'elettrocardiogramma da sforzo, che è un pochino più sofisticata, come anche se è molto semplice, appunto dovrebbe essere riservata a chi vuole fare appunto attività sportiva, a chi ha anche un certo rischio. E direi che dopo i 50 anni, sicuramente 55 anni per gli uomini e dopo i 45 per le donne è indicato, cioè un check, se si fanno tanti check riguardanti per esempio anche la patologia oncologica, e conviene anche vedere come sta il nostro cuore durante sforzo. Quindi anche proporrei, diciamo, un allargamento alle indicazioni di questo esame. Professor Fedele, la ringrazio, lei è stato chiarissimo e mi raccomando, proteggiamo il nostro cuore, controlliamolo. Ieri abbiamo parlato di colesterolo, continuiamo con i controlli, con un'attività fisica regolare che al cuore sicuramente fa bene e, come dicevamo ieri, con una dieta equilibrata. Professor Fedele, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona giornata. Pronto soccorso. Torniamo ad occuparci invece della nostra pelle, che ci manda dei segnali chiari di disagio, di fastidio nei confronti del freddo, e abbiamo in linea con noi Marco che ci chiama da Milano. Marco, buongiorno. Buongiorno. La chiamavo per mia moglie. Sì. Allora, quando arrivano i primi freddi, incomincia ad avere un senso di prurito, pelle d'oca, fastidio a livello di addome e un po' le braccia, senza particolari arrossamenti, sì, però proprio un fastidio persistente. Una pelle d'oca però a livello di addominali e di fianchi. Con prurito, vero? Mi ha detto Marco. E lei lo nota quando la temperatura scende. Dottoressa Serri, forse la moglie di Marco ha, non lo so, magari degli indumenti che... Esatto. Mi viene da pensare, visto che parla di addome, che è la zona anche della cintura, che possa essere particolarmente sensibile anche agli indumenti che si indossano. Bisogna calcolare che un qualsiasi indumento si tiene su 10-12 ore, anche di più talvolta, per cui valutare il tipo di indumento, la naturalità del tipo di indumento, perché le fibre naturali sono sempre più indicate, e soprattutto con che coloranti è colorato questo indumento, come è lavato l'indumento, perché spesso tracce di detersivo non sciacquato possono dare fastidio. Tenuto conto che la pelle della signora può essere particolarmente sensibile, per cui bisogna anche andare a vedere come si lava la signora, perché il lavaggio è un momento che può essere molto delicato, soprattutto quando fa freddo, perché bisogna stare attenti a evitare di togliere troppi lipidi alla pelle detergendo bene, quindi usare detergenti delicati, evitando tutti quelli troppo schiumogeni. Insomma, noi non siamo un piatto da sgrassare. O una pentolona. Ecco. Esatto. Per cui in assenza di segnali di patologia nella signora, magari si può far controllare da un dermatologo, ma consiglierei di valutare gli indumenti, di valutare l'ipotesi di, quando le peggiora il prurito, detergersi e poi chiaramente idratare e nutrire la pelle con prodotti non solo idratanti, ma anche contenenti oli vegetali, per esempio oli di borragine, oli polinsaturi, olio di argan, o burri come il burro di karité, cere come la cera jojoba, che oltre a un'azione estremamente idratante, nutriente, emolliente, hanno anche un'azione lenitiva, cioè calmante per la pelle. Adesso... questo è piuttosto importante. Nutrire, ma contemporaneamente calmare questa pelle. La pelle reagisce con queste sensazioni di secchezza, tira. Quando si arrabbia, quando qualcosa la irrita, la pelle è molto permalosa. E mi immagino questi cheratinociti tutti irritati, tutti inviperiti per un qualche motivo che bisogna andare a scoprire. Ecco, allora cerchiamo di calmarli, prendiamoli con dolcezza e soprattutto con prodotti naturali. Non siamo dei piatti, come diceva la dottoressa Serri. guardiamoci allo specchio. Come reagisce la nostra pelle al freddo dell'inverno? 800-24-0024. Ho detto guardiamoci allo specchio, ma magari ci sono delle zone che si arrossono, prudono, in parti dove lo specchio non è necessario utilizzare. Mi riferisco ad esempio ai piedi, o sulla pancia, o lungo le cosce. Ci sono dei molti messaggi, ve ne leggo uno perché riassume un po' il problema. Dopo la doccia del mattino soffro di un grande prurito alle gambe. Ho provato diversi prodotti senza risultato. Dottor Bettoli, il prurito ritorna. L'abbiamo sentito anche nella domanda del precedente ascoltatore riferito alla moglie, ma sembra che l'inverno sia più pruriginoso dell'estate. Sì, effettivamente tra le tante situazioni che possono indurre o favorire il prurito c'è anche la secchezza cutanea, come anche il freddo stesso. C'è proprio una forma di prurito che viene chiamato prurito yemalis, che è legato squisitamente al freddo indipendentemente da quelle che siano le condizioni cutanee. Ma quindi, come diceva anche la dottoressa Serri, i lavaggi un po' troppo energici possono sgrassare la cute, creare secchezza e quindi indurre prurito. Esiste anche una forma di orticaria di chiamata prurito colinergico per i cambiamenti di temperatura che avvengono, caldo freddo, che possono indurre in certi casi prurito. In questi casi quindi si deve evitare di usare prodotti aggressivi, ma dottoressa sì. Serri diceva magari prodotti che contengono degli oli. Altre indicazioni? Beh, stare attenti per esempio a non fare troppi scrub con voi col guanto di crin, eccetera. Io ho notato per esempio nella mia esperienza che i peeling, sebbene siano più consigliati d'inverno perché non c'è l'esposizione al sole, sono molto meglio tollerati nei mesi più caldi, proprio perché la pelle infreddolita oppure diciamo aggredita tra virgolette dall'insulto costituito dalla bassa temperatura magari associata al vento reagisce peggio, come pure nell'uomo il farsi la barba quotidianamente, che in fondo è un'azione di peeling meccanico, risulta più irritante, ma qui ce ne può parlare in maniera diretta sì, il dottor Bettoli, non solo perché è dermatologo. Irritante ed inverno, cioè bisogna da un lato stare attenti, ma anche stare attenti a quello che si mette sopra la pelle. Insisto, gli indumenti sono molto importanti e l'aria che è attorno è importante. Per esempio, i sistemi di riscaldamento sono fondamentali per il benessere e malessere della nostra pelle. Ecco, e qua, dottoressa Serri, intanto saluto Fausto da Modena, gli avevamo dato un appuntamento. Fausto, buongiorno. Buongiorno. La sto trascurando, ma la dottoressa Serri, molti dermatologi, si legge, voi dite, mi raccomando, in inverno attenti agli sbalzi di temperatura. E lo so anch'io, ma se devo andare a comprare il pane sono a casa, o se finisco di lavorare in un ambiente riscaldato ed esco, cosa devo fare? Dottoressa Serri. No, ma infatti è un consiglio assolutamente, mi permetto di dire, sciocco, perché è inattuabile. Mi piace, sono i due consigli: non ti stressare e attento agli sbalzi di temperatura. No, bisogna imparare a gestire queste cose, quindi a gestire gli sbalzi di temperatura e a gestire eventualmente anche lo stress. Parentesi, lo stress rende la pelle più reattiva, d'inverno non so per quale motivo, forse perché siamo tutti un po' più tesi, ci si stressa più facilmente, quindi è un altro motivo. Tra l'altro stavo leggendo proprio su una rivista di salute che ieri è stata la giornata più triste e più stressante dell'anno, perché fredda, lunedì, meno male, lavoro, che ce la siamo buttate alle spalle. L'abbiamo superata, da adesso in poi non può che andare meglio. Fausto, lei ha qualche suggerimento da darci o vuole un aiuto? Non lo so, a me capita sovente quando sto fuori all'aria aperta, al freddo, nonostante mi protegga la pelle del viso con creme o con emulsioni dopo barba, quando rientro ad avere dei forti arrossamenti, violenti, proprio arrossamenti imbarazzanti anche, e questo mi capita anche ogni tanto quando bevo un goccio di vino alla sera, non vorrei essere frainteso, no, certo. un mezzo bicchiere a cena, a tavola, e mi capita di avere dei fortissimi arrossamenti al viso, anche imbarazzanti. Insomma, Fausto, si faccia crescere la barba, che dice dottor Bettoli? Buona idea, sì. Sto pensando che il signore, l'ascoltatore, possa essere affetto da rosacea. Ecco, parliamone di questa rosacea che torna puntuale in tutte le puntate in cui affrontiamo parliamo di pelle. Non mi meraviglia questo, perché la rosacea non è mai a posto, non è a posto in estate, non è a posto in inverno, non è a posto mai. No, sto scherzando, ma non del tutto, in realtà è vero, nel senso che è una delle dermatiti che più delle altre non si avvantaggia degli sbalzi di temperatura. Quanto racconta l'ascoltatore, cioè il passaggio dal freddo al caldo con arrossamenti, addirittura si possono chiamare anche vampate di calore, sono uno dei sintomi caratterizzanti più tipici, più basilari della rosacea, o quantomeno di uno degli aspetti iniziali della rosacea. Che cosa si può fare, dottore? Dunque, io ho detto si faccia crescere la barba, così per ridere. Beh, in fondo la barba è un po' di una protegge, ha un aspetto di protezione, certo, salva, crea un cuscinetto di aria che rende più difficili gli scambi di calore. No, per quanto riguarda i flushing, come vengono definiti questi arrossamenti, essendo provocati dal sbalzo di temperatura, qui c'è poco da fare. Comunque protezione con indumenti e idratanti, probabilmente il signore utilizza un idratante che non è sufficientemente protettivo. Consiglierei quindi una di quelle formulazioni che vengono chiamati gli emollienti, in pratica quelli definiti di acqua in olio, quindi con una base più untuosa che hanno un potenziale di protezione maggiore. Ecco, questo penso. Questa è una buona indicazione. Ci sono anche dei farmaci, ma sono un po' esagerati per un caso come questo. Andiamo a Lucca, magnifica città, e dove ci aspetta Roberto. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Che succede lì a Lucca? Niente, noi siamo con un problema ai piedi, ha un grosso prurito ai piedi su tutta la pianta del piede e mi si formano tipo dei calli, però molto duri e non sono calli, sono sbiancano anche, diventano secchi. Senta, se prude il naso si dice che arrivino soldi, non so se il prurito ai piedi è ben augurante, oltre a essere è fastidioso, ma magari porta buono. Dottoressa Serri? Lì bisognerebbe proprio vedere, comunque è un'iperkeratosi plantare, bisogna vedere come è, se è associata ad altri fenomeni, altri segnali della cute. Non so cosa ne pensa Vincenzo, tante volte per noi dermatologi che siamo così visivi anche come diagnosi, oltre che ci basiamo sui sintomi, è difficile dare dei suggerimenti sensati senza poter vedere le cose. Certo, io posso sempre suggerire, per cortesia, stare sempre molto attenti al tipo di calzini. Per esempio, i calzini blu possono essere irritanti perché il colore blu è irritante, però molte volte di queste forme di iperkeratosi con magari tagli anche che si chiamano ragadi, cioè fissurazioni sul tallone, sono un po' costituzionali, ci sono delle persone predisposte ad averli e bisogna curarli con delle pomate, delle creme apposite, magari contenenti un po' di urea. Quindi a Roberto già gli diciamo non provi a non mettersi il calzino blu. Roberto, di che colore porta le calze? Blu e nere. Blu e nere. Lo so che magari andiamo, non è bianchissimo, ma provare a metterle color naturale, beige, bianco, eccetera, per un po'. Vede Roberto, lei ha chiamato per i suoi piedi e la dottoressa Serri ed io ci permettiamo di rifarla addirittura al guardaroba. Ecco. Comunque provi e ci faccia sapere. Andiamo a Genova, c'è Fabrizio, buongiorno. Buongiorno. Allora, io soffro di dermatite seborroica da quando ero ragazzino, intorno ai 14 anni. Ultimamente faccio un lavoro di magazziniere in celle freezer, per cui lavoro intorno ai meno 25. Oh, mamma mia, che freddo! E ovviamente il mio problema si è acutizzato, nel senso che mi vengono soprattutto intorno al naso, sopra le sopracciglia e anche sulle guance, proprio delle squamature certe volte. E le mie pomate cortisoniche, con cui ormai io convivo purtroppo da ragazzo, non servono quasi più a niente, nel senso che ogni tanto ne devo cambiare un tipo per un'altra perché non fanno più effetto. Fabrizio, è ancora in linea? Eccoci. Sono ancora qui. Allora, dottor Bettoli, dermatite seborroica, passa da un prodotto all'altro, il cortisone sembra non faccia più effetto, è l'iter classico della dermatite seborroica o Fabrizio ha sbagliato qualcosa? Ci si cade molto frequentemente, purtroppo. Intanto c'è da dire che l'ambiente che frequenta per motivi lavorativi il nostro ascoltatore non è certo l'ideale. È ben noto che la dematite seborroica migliora moltissimo, a volte anche guarisce in estate, ma detto questo è situazione inevitabile. La prima raccomandazione che farei al signore è di sospendere il cortisonico. Ovviamente il cortisonico va sospeso non per mano sua, senza l'ausilio di un dermatologo, perché non va ridotto tutto di colpo, altrimenti potrebbe avere un peggioramento importante. Si riduce progressivamente e passando magari a cortisonici più leggeri, sì, cosciente del fatto che possa un po' peggiorare, e poi scivolerei pian piano verso gli antinfiammatori non cortisonici, ce ne sono numerosi, molto efficaci, verso gli stabilizzanti del sebo, anche perché se continua col cortisonico, mi sono ricavito per molti anni, potrebbe passare ad avere, oltre alla dematite seborroica, anche la rosacea da steroidi. Quindi due disturbi, cioè uno possono coesistere. Sì. Dottor Bettoli, arrivano diversi messaggi sull'acne di mamme preoccupate, sì, con ragazzini, mm-hmm, in trattamento che improvvisamente vedono che queste terapie falliscono. Sì. È colpa del freddo, è normale? Beh, il freddo raramente è responsabile diretto di un peggioramento sostanziale dell'acne. Diciamo che il rapporto col freddo dell'acne è indiretto, nel senso che in qualche caso, neanche in tutti, l'acne ha qualche miglioramento in estate e tende a peggiorare quasi fisiologicamente in autunno. Ma non mi riferirei al freddo di per sé come prima causa, o comunque come causa determinante di un peggioramento significativo dell'acne. Dottoressa Serri, io vorrei parlare con lei delle labbra. Ne parlo con lei perché, come autrice di Tutte ragazze, come affrontare con eleganza il tempo che passa, vogliamo baciare a lungo, ma talvolta però le labbra sono screpolate. Con labbra belle, morbide, turbide, ecco, certo, da molto ragazze, importante, ecco, da ragazze proprio, è molto importante nutrirle, e io in genere suggerisco proprio l'olio di vitamina E puro e il burro di karité puro, perché vanno molto molto bene su questa zona delicata, che è particolarmente delicata perché è mucosa, per cui manca la protezione data dallo strato corneo che c'è nel resto della pelle, per cui mattino e sera questi oli, e poi stare molto attenti a usare rossetti di ottima qualità e i no transfer, quei rossetti che dicono che durano tante ore, non sono molto indicati nei mesi invernali perché tendono a seccare ulteriormente le labbra. E poi è molto importante stare attenti nei mesi invernali. Mi piace pensare al nutrimento per la pelle un po' come al nutrimento per il corpo, quindi anche il cibo è un nutrimento che indirettamente arriva anche alla pelle, quindi tutti quegli alimenti invernali, mangiare cibi più ricchi di oli per esempio, meglio prediligere gli oli vegetali tipo l'olio di oliva, ma anche un po' di burro così ricco di vitamina A, burro soprattutto crudo d'inverno non fa male, a meno che non ci siano delle controindicazioni precise, cioè d'inverno ci possiamo consentire qualche alimento un po' più magari considerato pesante, che invece pesante non è perché va a nutrire veramente dall'interno, per esempio la vitamina A, che è molto utile, fonti di vitamina A ricchissimi di vitamina A sono proprio il burro e la panna. Dottor, lei ci fa fare dei peccatoni di gola. Beh, poi, insomma, almeno dobbiamo anche concederci un pochino. Certo. Io per esempio sono pro cacao, trovo che il cacao sia una delle sostanze ora riabilitate, meno male, che fanno meglio se in piccola quantità tra tutto, nel tutto il mondo dei dolci, ecco. Quindi aggiungiamo anche un po' di cacao, di cioccolato, dai, che ci fa bene, gratifica. Ecco. Intanto io vi saluto e vi ringrazio, ho giusto dei cioccolatini che mi aspettano proprio, ecco, vicino al mio computer, e me ne mangerò uno in vostro onore. Grazie al dottor Bettoli. Grazie a voi. Grazie alla dottoressa Serri, a presto. Grazie mille. E abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme e lo sfrutteremo ad arte, o meglio per l'arte, perché ogni giorno di questa settimana, con l'aiuto di un grande esperto, utilizzeremo la pittura come attivatore di emozioni e pensieri a vantaggio proprio del nostro benessere quotidiano. Qua in studio accanto a me il professor Stefano Zuffi, storico dell'arte, autore del Mondo dipinto, Feltrinelli Kids, che è un libro che insegna l'arte ai bambini e quindi che io vi suggerisco caldamente. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti voi. Professore, allora iniziamo oggi il nostro, non so se definirlo allenamento artistico emotivo, con uno dei più grandi pittori fiorentini di tutti i tempi e direi uno dei più popolari grazie alle sue veneri e alle sue scapigliate ninfe danzanti. L'abbiamo riconosciuto tutti, parliamo di Botticelli. Sandro Botticelli ha 500 anni dalla morte e quindi un anno da cifra tonda, da centenario, da mezzo millennio. E perché Botticelli ci fa stare meglio? Perché parlare di Botticelli in una trasmissione sul benessere? Beh, perché Botticelli al culmine, all'apice dell'epoca d'oro dell'umanesimo fiorentino, nell'età di Lorenzo il Magnifico, ci ha indicato la via dell'equilibrio tra la mente e il corpo, tra l'anima e la vita quotidiana, tra il coltivare le proprie passioni intellettuali e il gusto della relazione, il gusto dell'incontro, il gusto della vita interamente spesa nell'incontro pubblico. Quindi Botticelli è un ottimo maestro per aiutarci a trovare il benessere psico e fisico, interiore e di charme per gli uomini e per le donne. Basta guardare la galleria dei suoi personaggi maschili e femminili per avere una vera e propria sfilata di figure in splendida forma e molto accattivanti sotto il profilo della silhouette e della compostezza intellettuale. Allora noi, professore, ci vediamo domani qua in studio e vogliamo già anticipare? Anticipiamo. Domani sarà la volta del Giorgione e vedremo perché il Giorgione può farci stare meglio. Professor Zuffi, io la ringrazio per essere stato con noi, ringrazio voi che ci avete seguito. Domani vi aspetto dopo il GR delle 11. Buonissima giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.